La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo di teatro dal vivo, e ce ne occupiamo soprattutto perché una proposta di legge è stata presentata da due deputate, e quindi ci fa piacere e ci onora il fatto che due deputate, una di maggioranza e una di opposizione, si siano messe insieme per rivedere quello che sono le norme sullo spettacolo in un momento di crisi economica molto acuta, dove viene colpito soprattutto il divertimento e la cultura, quali appunto sono rappresentati egregiamente nel mondo dello spettacolo. Abbiamo con noi in linea Gabriella Carlucci, PDL, membro della Commissione Cultura della Camera, buongiorno, che è stata buongiorno proprio la promotrice di questa legge quadro. Ecco, di che cosa si tratta esattamente? Allora, intanto diciamo che la legge quadro è necessaria innanzitutto per ristabilire le regole, scrivere le regole che mancano quando nel 2001 è stata approvata una riforma costituzionale del titolo quinto della Costituzione, la quale trasforma i rapporti fra Stato e Regioni in materia di spettacolo. Diciamo che in quella riforma non furono definiti, anzi addirittura la parola spettacolo non era neanche ricompresa nell'articolo nuovo della Costituzione. E dopo tante discussioni si è evinto, è stato chiarito il concetto che lo spettacolo è ricompreso fra le attività culturali ed è di conseguenza una materia concorrente, ovvero lo Stato detta i principi e le regioni li attuano. Detto questo, in mancanza di una legge, in questi anni lo spettacolo italiano, lo spettacolo dal vivo, perché invece per il cinema sono state fatte negli anni delle piccole riforme, dei piccoli passi avanti che hanno dato i loro frutti. Lo spettacolo italiano è andato avanti con i regolamenti ministeriali che cambiano di anno in anno, che non danno mai per esempio una prospettiva di investimento almeno triennale, e comunque sono regolamenti che fotografano la realtà in essere, mentre lo spettacolo, anche perché sono mutate le condizioni della fruizione dello spettacolo in Italia, nel senso che se consideriamo che oggi l'offerta di spettacolo si è molto diversificata e che quindi lo spettatore ha tantissime possibilità di intrattenimento, è ovvio che una legge che si fa oggi deve prendere in considerazione anche tutti i nuovi media, se non altro dal punto di vista della promozione dell'offerta che si fa dello spettacolo dal vivo. Ecco perché quindi innanzitutto finalmente scrivere quelle norme che servono, perché dal 2001 oggi, non essendoci regole, si è andato avanti appunto per regolamenti, e poi perché c'è in atto una mutazione anche di sensibilità da parte dell'opinione pubblica, nel senso di dire, e queste polemiche tra l'altro sono approdate su giornali paludati e hanno animato il dibattito culturale su giornali e televisioni negli ultimi tempi, non è più possibile finanziare lo spettacolo a pioggia, finanziare, perché lo Stato da sempre finanzia le attività culturali e lo spettacolo, bisogna assolutamente riscrivere le regole, nel senso di identificare dei criteri, delle funzioni per cui non si possono dare a tutti i soggetti gli stessi soldi, quindi identificare chi fa cosa, ed ecco perché su queste idee è importante costruire proprio, e abbiamo costruito con tante discussioni, con tante audizioni e devo dire con il contributo fattivo dell'opposizione, e non a caso l'onorevole De Biase è qui presente ed è sempre stata presente a tutte le discussioni, bisogna identificare questi nuovi criteri per cui lo Stato finanzia direttamente le attività di spettacolo scegliendo appunto chi fa cosa. Inoltre è arrivato il momento di inserire anche per le attività dello spettacolo dal vivo quelle norme fiscali che nel frattempo sono state introdotte anche grazie al mio lavoro, anche in questo caso bipartisan, per quanto riguarda il cinema, ovvero queste norme fiscali che aiutano, incentivano l'ingresso sia dei privati nella produzione, ma anche con questi famosi crediti d'imposta, la possibilità per chi già produce spettacolo di investire le proprie tasse, pensiamo all'IVA, all'IRPEF, all'IRAP, nella produzione. Quindi lo Stato dice, tu produttore o distributore di teatro, non ci dai l'IVA e la reinvesti nella produzione teatrale o nella distribuzione teatrale. Queste sono norme molto vantaggiose che vengono utilizzate da tanti paesi del mondo, in particolare anche da quei paesi europei che a fronte del finanziamento diretto dello Stato hanno questa gamma di facilitazioni fiscali che quindi incentivano l'investimento e quindi la produzione dello spettacolo dal vivo. Allora, credo di essere stata molto chiara. Ecco, una cosa, onorevole Carlucci, spettacolo dal vivo vuol dire teatro, giusto? Ma certo, anche altre cose. Che cosa certamente, esattamente? Le altre cose sono la danza, che purtroppo è considerata il fanalino di coda, ma è una forma di spettacolo meravigliosa. Tra l'altro non ci dimentichiamo che la prima ballerina ad usare le scarpe con la punta rigida fu una ballerina italiana. La musica dal vivo, la musica lirica, la musica colta, no? Quindi i concerti di musica colta, ma anche le famose fondazioni lirico-sinfoniche, con la musica colta, le opere liriche che hanno fatto conoscere l'italiano in tutto il mondo, e poi lo spettacolo viaggiante, e quindi i circhi, lo spettacolo di strada. Quindi tutto questo viene ricompreso sotto la forma spettacolo dal vivo. Allora, noi la preghiamo di stare con noi ancora un pochino e intanto voleva appunto sentire l'onorevole Emilia Grazia De Biasi, membro anche lei della Commissione Cultura della Camera, che appunto sta preparando questa legge quadro insieme a Gabriella Carlucci. Che cosa c'è che non va nello spettacolo italiano? La gente non va a teatro oppure ci va poco? E poi, attenzione, questa nuova proposta di legge non rischia che saranno finanziati solo gli spettacoli magari più popolari? E che cosa facciamo di Shakespeare, di Pirandello, dei grandi classici? Onorevole De Biasi. Buongiorno. Buongiorno. Mi tocca dire innanzitutto che l'anno scorso, voglio ricordare che le persone che sono andate a teatro hanno superato le persone che sono andate allo stadio, e quindi mi pare che sia un buon segnale, ecco, in un paese in cui la calciomania è vigente in ogni anfratto della nostra vita. Quindi il teatro è vivo, lo spettacolo dal vivo è vivo, se possiamo usare uno slogan, e ha un pubblico che è vasto, che io credo si possa e si debba aumentare. Penso in particolare alle occasioni di formazione per i più giovani, il rapporto con le scuole, il rapporto con i diversi territori. Quindi lo spettacolo dal vivo esiste, c'è e la gente va a teatro. In secondo luogo, quando noi diciamo di fare una legge sullo spettacolo dal vivo, diciamo una cosa molto importante, perché noi faremo una legge parlamentare e non governativa, quindi faremo una legge insieme, maggioranza e opposizione. Non con il contributo fattivo dell'opposizione, ma assieme, maggioranza e opposizione. La legge è una legge quadro, significa che è una legge che non entrerà nel merito dei singoli settori, ma metterà a posto le funzioni, dirà finalmente chi fa che cosa, come si deve finanziare, e da questo punto di vista io voglio dire immediatamente che nella mia proposta, ma anche in quella dell'onorevole Carlucci per la verità, e anche nelle altre proposte, esiste con continua ad esistere il fondo unico per lo spettacolo che deve rimanere in capo allo Stato, e attorno al fondo unico per lo spettacolo vi dovranno essere altre forme di finanziamento, fra le quali in primo luogo quelle che riguardano la defiscalizzazione per il lavoro dello spettacolo dal vivo, di coloro che producono spettacolo dal vivo, e anche delle forme di agevolazione, per esempio legate alla quantità di biglietti venduti, per esempio legate alla possibilità, se non di eliminare l'IVA, almeno di abbatterla in modo molto forte, perché oggi sappiamo che il tema del credito e il tema fiscale sono due temi molto importanti per il finanziamento di questa che io ritengo essere un'impresa culturale e non semplicemente un momento di divertimento del pubblico, è un'impresa culturale che concorre alla crescita del paese. Ora è evidente che c'è un problema, però io lo dico subito, e cioè che nessuna legge sullo spettacolo dal vivo è possibile se i finanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo continuano a essere così tagliati. 200 milioni all'anno per 3 anni in meno ci riporta risalgano ai valori del 1985, e questo è molto grave. Quindi se non vi è un'adeguata copertura economica sarà molto difficile riuscire a fare una legge, e quindi in questo senso ci stiamo muovendo, direi, all'unisono come Commissione Cultura della Camera dei Deputati, e mi sembra un dato molto importante. Quindi lei contrasta l'idea di Baricco, che ha detto basta soldi di Stato al teatro, insomma senza i soldi di Stato il teatro non sopravvive, diciamolo, no? Guardi, bisogna dire a Baricco un'altra cosa. Diciamola, io l'ho detta in tutte le salse, quindi la dico anche qui molto volentieri, e vi ringrazio di darmi una tribuna, ecco, perché c'è anche una certa disparità, perché Baricco scrive su un grande quotidiano. E quando ma lei siede in Parlamento, questo è importante, anche l'onorevole Carlucci, poi sentiremo su questo punto di Baricco. Io voglio dire a Baricco con grande forza di non fare la guerra fra poveri, e cioè lo spettacolo in nessuna forma di cultura, in nessuna parte del mondo, vive senza un sostegno e un intervento pubblico. Questo si deve sapere, e gli ascoltatori lo devono sapere, non c'è paese al mondo in cui non ci sia il sostegno pubblico alla cultura e allo spettacolo. Baricco aggiunge un'altra cosa, una sulla quale io sono d'accordo, cioè incentivare gli elementi di formazione del pubblico, quindi il rapporto con le scuole, è una cosa su cui io non sono d'accordo, e cioè togliere i soldi al teatro per darli alla televisione, perché vede, io ritengo che la televisione, che è uno strumento molto importante, sia, penso per esempio al servizio pubblico radiotelevisivo, ampiamente finanziato dal canone. Non c'è paragone fra i 500 scarsi, 400 milioni tagliati adesso che diventano 300 sullo spettacolo dal vivo, 300 milioni per finanziare in questo paese teatro, musica, danza, spettacolo viaggiante, enti lirici, e gli 8 miliardi che sono tagliati alla scuola, e l'introito complessivo del canone della RAI, che è al perché sta appunto, è una tassa che i cittadini italiani pagano, e non c'è davvero paragone, è come prendersela con la parte più debole, eppure una parte così importante del patrimonio, della storia, ma anche del futuro del nostro paese, perché il gesto, il corpo, lo sguardo non sono sostituibili, il rapporto diretto con il pubblico non è sostituibile con il rapporto mediato della televisione, sono forme davvero molto diverse. Vogliamo lavorare sulla televisione, ma allora diciamo la verità, noi vogliamo una televisione di qualità e non la televisione spazzatura che vediamo oggi, vogliamo una televisione che produca cultura non noiosa, una cultura divertente alla portata di tutti e sì, popolare. Ecco, ma allora, se la col teatro mi sembra francamente, un pochino assurdo. La quota rosa. Una legge per lo spettacolo dal vivo, sentivamo appunto l'onorevole Emilia Grazia De Biasi del PD che diceva un conto è la televisione, un conto è recitare ogni sera dal vivo, e come direbbe Shakespeare, ogni sera c'è qualcosa di simile, ma c'è anche qualcosa che cambia. Gabriella Carlucci, PDL, membro della Commissione Cultura e promotrice della legge. Abbiamo parlato appunto, non è che si taglieranno i grandi classici, però in Italia i grandi classici non si tagliano mai. E per quanto riguarda lo spettacolo sperimentale, come si farà a distinguere a chi dare i soldi e a chi non darli? Allora, proprio quello che dicevo io prima, cioè identificare le funzioni, chi fa cosa. Allora, noi non facciamo niente nel nostro paese per formare il pubblico, per formare i nuovi pubblici. Abbiamo il terrore, il timore che appunto i teatri possano morire perché scompare il pubblico, e quindi non facciamo nulla per formare il pubblico e non facciamo nulla per incentivare i giovani, e per giovani io intendo anche la nuova drammaturgia, i nuovi attori, i nuovi registi, i nuovi allestitori, niente di tutto ciò. Allora, fra i criteri che vanno identificati, individuati come criteri di merito, sono proprio questi due, cioè il praticare, realizzare delle azioni per formare il pubblico e praticare e realizzare attività per dare spazio ai nuovi talenti. Come, vi chiederete voi? Allora, innanzitutto, se pensiamo alla formazione del pubblico, dobbiamo avere la possibilità di dare orari e creare le condizioni perché chiunque possa accedere al teatro, e non solo al teatro di prosa, ma penso anche all'opera lirica, che è costosissima. Il biglietto dell'opera lirica costa ed è costosissima, e quindi permette solo ad un pubblico d'élite di andare a vedere lo spettacolo. Allora, di idee ce ne sono tante. Per quanto riguarda le fasce orarie, per esempio, oltre ad organizzare le matinée, ci sono delle sperimentazioni in corso di alcuni teatri romani che, anziché iniziare il primo spettacolo alle 21, lo iniziano alle 19, per cui chi esce dall'ufficio e chi ha terminato la sua giornata di lavoro, anziché andare a casa poi cambiarsi, poi deve andare comunque a cena dopo lo spettacolo, va direttamente a vedere lo spettacolo a teatro e poi va, finisce la sua serata tornando a casa sonoramente andando a mangiare. E questo tipo di promozione viene anche rivolta naturalmente alle scuole, ma sempre per venire incontro quindi all'esigenza duplice sia di dare spazio ai nuovi talenti e anche a quello di rendere il costo del biglietto più basso, perché non utilizzare gli stessi allestimenti, e in questo senso sia quelli teatrali che quelli dell'opera lirica. Quindi pensiamo all'opera lirica, allestimenti costosissimi, scene costosissimi, vestiti costosissimi, che poi vengono utilizzati per quelle 4-5 repliche con il nome di grido, e poi il tutto finisce lì, con costi enormi che non vengono ottimizzati. Allora, pensiamo invece di utilizzare lo stesso allestimento e di darlo, dare la disponibilità di quell'allestimento ad una compagnia di giovani. Quindi con un giovane regista, con dei giovani attori oppure con dei giovani cantanti, il tutto permetterebbe di non buttare questi allestimenti faraonici e comunque costosissimi, di permettere a dei giovani di debuttare e magari, perché no, di allungare la stagione. E in tutto questo il costo del biglietto sarebbe di 10 volte più basso, e quindi ecco che possiamo incentivare la visione di spettacoli di un certo tipo anche per le fasce di pubblico meno abbienti o per i giovani giovanissimi, facendo delle convenzioni con le scuole. Quindi di idee, e adesso ve ne ho date ce ne sono tantissime, no, ma soprattutto ce ne sono tantissime. È molto carino perché mi ricorda quando venivano a girare i Colossal qui a Roma, a Cinecittà, almeno questo è quello che si racconta in storia del cinema, no? E venivano a girare Cleopatra. Poi quanti film, diciamo, un pochino più di bassa lega, brava, sono stati fatti su quelle scenografie? Con quello che era avanzato, su quello che restava, certo. Allora, è molto carino, per esempio, dire: io vado a vedere il cantante lirico di turno, il top del top, lo pago 50 euro, però poi dopo 4-5 repliche, e magari il mese dopo, io posso andare a vedere gli studenti del conservatorio. Bravissima. Che mi fanno lo stesso spettacolo a 10 euro, però io sono una giovane, quindi la Traviata è sempre la Traviata, e magari scopriremo qualche nuova voce. Allora, abbiamo con noi Benedetta Buccellato, un'attrice esperta anche di problemi teatrali. Io le chiedo subito: ma è vero che i teatri sono pieni in provincia e sono vuoti nelle grandi città, e perché? Dunque, quando si fa una tournée teatrale, le grandi piazze, cioè Roma, Milano, Napoli, tutte le grandi città italiane, sono sempre un po' considerate a perdere, proprio perché nella grande città il pubblico è inferiore. Nelle piccole città io credo che ci sia intanto un'organizzazione differente, e poi probabilmente la piccola città, il piccolo centro, riesce a difendere la propria cultura, ha meno, diciamo, attacchi esterni. Nella grande città, nella metropoli, diciamo che probabilmente anche in provincia poi cambierà, è più evidente, sono più evidenti i guasti fatti da, diciamo, per esempio dalla subcultura televisiva. E ascoltavo la fine dell'intervento precedente, che mi sembra dell'onorevole Carlucci, che dava delle indicazioni pratiche per come risolvere alcuni problemi di costi, di gestione, quindi anche di fruizione del teatro. Io trovo che però c'è un problema di base molto importante. Creare il pubblico teatrale vuol dire far capire, soprattutto alle nuove generazioni, che esiste il bisogno del teatro. Ah, io ho la sensazione che invece il teatro stia diventando sempre di più un prodotto, un'attività di nicchia, tra l'altro sempre più povera, sempre più falcidiata, anche perché i giovani oggi non sanno di avere bisogno del teatro, nel senso che vengono cresciuti, bombardati con tutt'altri modelli che purtroppo passano da un uso, secondo me, criminale del mezzo televisivo, e quando per caso si trovano ad assistere ad uno spettacolo teatrale o a farlo essi stessi, sono i primi ad appassionarsi ovviamente a quelle che sono le caratteristiche del teatro, che è quello della comunicazione diretta, che è quella della voce, del corpo, dell'essere lì in quel momento, qualcosa che non può essere riprodotto, quindi in assoluta controtendenza con quella che è la cultura più generale della riproducibilità. Ma proprio per questa sua caratteristica, per questa sua preziosità, il teatro e più in generale la cultura andrebbe difesa, noi purtroppo siamo, penso, uno dei pochi paesi occidentali e cosiddetti civili che non investono in cultura, che non ritengono che la cultura sia una grande opportunità, che non difendono la propria identità nazionale. Ma noi abbiamo appunto l'onorevole Gabriella Carlucci e l'onorevole Emilia Grazia De Biasi che stanno proprio facendo la legge, quindi cerchiamo appunto oggi di investire loro. Io la interrompo un attimo per poi ridarle la parola, perché ci ha raggiunto Emanuela Giordano, regista teatrale. Lei sarà in scena al Valle con uno spettacolo che parla di donne, tra poco, di donne particolarmente colpite dalla violenza maschile. Emanuela Giordano, buongiorno. Sì, ecco, ci può dire anche le altre ospiti. Sì, le vostre ospiti, purtroppo sono entrata solo adesso, ma insomma so quanto si stanno dedicando al problema del teatro, insomma, quindi le ringrazio e le saluto. Dunque sì, al Valle, prima Teatro Stabile dell'Aquila, spettacolo fortemente voluto da un uomo, da Alessandro Gassman, il nuovo direttore dello Stabile dell'Aquila, e poi al Valle. È un testo che parla delle ragazze in Bari, un fenomeno terribile che investe tanti paesi del mondo e che fino a 50 anni fa riguardava anche il nostro paese, quindi è una tradizione barbara antica che riguarda tutta la terra, ragazze punite di uno sguardo, punite di un sorriso, punite di un no, punite per non volersi sposare, punite per voler studiare, comunque punite per il nulla con l'acidificazione, cioè che è la cosa più atroce che possa capitare a un essere umano, perché una volta che tu sei devastato nella pelle, nelle ossa, nei muscoli, non puoi vedere, non puoi sentire più, non puoi mangiare, non puoi apparire, sei una sorta di ombra che sopravvive nel nulla, in un'esistenza che non ha più rapporti, relazioni, contatti con lo fatto, con noi ci siamo proprio occupati anche di un'associazione italiana che si occupa di queste persone, di queste donne sfregiate con il vetriolo, poi diciamo il vetriolo, anche la sostanza, ci sono purtroppo tanti metodi, quindi lei quando sarà questo spettacolo al Valle a Roma? Siamo al Valle dal 14 aprile, mi cogliete impreparata perché sono dal 14 aprile in poi, comunque poi il testo diciamo due settimane, e comunque voglio riallacciarmi, perché è fondamentale, ci tengo a riallacciarmi a quello che stavo sentendo con molto interesse. Tutti gli spettacoli che mi riguardano in questo periodo, sono 6-7 in giro per l'Italia, dalla Sicilia al nord, hanno avuto rapporti e relazioni con i giovani, con seminari che li hanno preceduti, e il risultato che io sto verificando in questi ultimi anni, prima non ero così attenta al problema, un entusiasmo da parte dei ragazzi, fin dalle scuole elementari. Un'attenzione, un entusiasmo al teatro incredibile, bisogna dargli un teatro che sia per loro, un teatro che abbia un'energia vitale, che non sia lo specchio egocentrico di un regista narciso, che sia comunicazione, epifania e che parli di cose che riguardano nel profondo ogni essere umano, e a quel punto il teatro diventa una forma di comunicazione unica e irripetibile. Noi lo stiamo verificando con grande entusiasmo, con grande successo. Questo spettacolo, per esempio, che si chiama Le Invisibili, che sarà al Teatro Valle a Roma per 2 settimane, non è assolutamente un teatro solo di denuncia, cupo, noioso, tedioso, di solo impatto, come si diceva un tempo, della TV del dolore, quindi il teatro del dolore. No, è un teatro che mette in scena la vitalità, la bellezza, la freschezza, l'ironia e la gioia di vivere delle ragazze, delle adolescenti. Quindi si gode uno spettacolo di grande musicalità, di grande ritmo e soltanto di grande denuncia, di grande denuncia però sociale. La quota rosa. Emilia, grazie a De Biasi, PD, membro della Commissione Cultura della Camera, abbiamo sentito la proposta di Gabriella Carlucci. Insomma, si possono abbassare i costi, si possono fare gli spettacoli alle 7 di sera, il doppio spettacolo nello stesso teatro, quindi questo qui fa sì che ci siano 2 biglietti staccati per il proprietario del teatro, il gestore del teatro. Si possono allestire le opere con i grandi nomi e poi magari con gli studenti delle scuole. Altre proposte, Emilia, grazie a De Biasi? Sì, altre proposte, una importantissima è che i comuni possano mettere a disposizione dei cosiddetti piccoli teatri, spazi in cui poter fare teatro senza doversi far carico dell'intero costo della sede. L'altra proposta è quella di avere bacheche di informazione nelle città che possano pubblicizzare le diverse opportunità di teatro presenti in una città e quindi anche quelle minori, quelle dei giovani. L'altra ancora sono le sperimentazioni e la possibilità di dotare il sistema del teatro italiano di residenze teatrali in cui i giovani possano anche avere scambi con l'estero, per esempio, e produrre teatro e spettacolo dal vivo in vario modo. Agevolazioni di partenza per chi produce, per chi fa teatro e per chi fa musica, perché non credo che oggi questi ragazzi vogliano essere assistiti, ma vogliono delle opportunità di partenza per far vedere quanto valgono, sull'esempio di quanto succede anche all'estero. Ma su tutto ovviamente pesa un ma, il ma è se ci sono i finanziamenti. Se ci sono finanziamenti e sostegno da parte convinto, da parte dello Stato e della Repubblica Italiana, quindi anche degli enti locali, e anche la capacità dei privati di investire sulla cultura e sullo spettacolo dal vivo, penso che si potrà andare avanti bene. Però su questo il governo ha una responsabilità molto pesante, perché se ma lei sta all'opposizione, no? Lei sta all'opposizione, quindi combatterà contro questo governo che ha tagliato i fondi. Come combatterà? Non contro, però insomma cercando una soluzione. Gabriella Carlucci, PDL, ce lo promette? Certamente, il ministro Bondi è venuto proprio qualche giorno fa in commissione a garantire tutto il suo impegno, e io so, efficace e fattivo, per recuperare questi soldi tagliati. Però volevo riagganciarmi al discorso fatto poco fa da una delle ospiti. Purtroppo io ho una pessima... Benedetta Buccellato, l'attrice che ci parlava del teatro in provincia, oppure Emanuela Giordano, la regista teatrale? Buccellato. Volevo dire questo, che chiameremo in causa pubblici, allora. Della formazione dei pubblici. Io trovo intanto la colpa assoluta e totale della nostra televisione di Stato, che non fa nessuno sforzo tranne mandare in onda in orari sepolcrali di tanto in tanto qualche spettacolo o di prosa o lirico, che non ha fatto mai appunto nessun tentativo di trovare una modalità. Tra l'altro non dimentichiamoci che la storia del cinema o la storia del teatro sono intrecciati strettamente con la storia del nostro paese, quindi secondo me, poiché la RAI possiede un archivio sconfinato di tutto il teatro italiano, tra l'altro ripreso perché sin dall'inizio della nostra televisione il teatro veniva mandato in televisione, in onda in televisione. E ricordiamo anche Edoardo, no? Che ricordiamo, certo, anche Edoardo che fece addirittura dei programmi televisivi delle non sue solo, opere. Non solo, in presa diretta con gli attori che recitavano dal vivo, una cosa meravigliosa. Bene, nessuno ha mai pensato in RAI di pensare ad un format che possa proporre il teatro non nudo e crudo, con un'introduzione, con una modalità per farlo appunto apprezzare ai nostri figli. I nostri figli non sanno nulla di Edoardo, ma di niente, di nessuno dei grandi interpreti del teatro italiano. Stesso dicasi per l'opera lirica, quindi la televisione potrebbe benissimo svolgere questo ruolo di formazione del pubblico. Certo, ripeto il concetto, non mandando in onda lo spettacolo a luna di notte, perché a luna di notte troverai i soliti appassionati di quel genere. Altra cosa, proprio nel compilare, nello scrivere la legge, vogliamo inserire una gamma di incentivi, ma allora diamo degli incentivi anche a quelle scuole italiane che nelle ore pomeridiane, abbiamo sentito che insomma la maggior parte dei genitori sceglie per il 70% il tempo pieno, allora perché non insegnare il teatro e la musica come materie complementari? Pensate che negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, il teatro è materia come le altre, certo non di mattina, magari di pomeriggio, e allora ecco che torna utile l'accordo con il teatro, che ha deciso come sua funzione, per ottenere i finanziamenti dello Stato, quella di insegnare anche il teatro, quindi la recitazione ai ragazzi e ai bambini delle scuole. Ne parla lei col ministro Gelmini, ne parla lei, no, si ma fa no, lei. Ma stiamo dicendo che questo deve partire però dalla nostra legge come incentivo al teatro che decide di fare questa attività, come un'attività meritoria di essere finanziata dallo Stato. Noi abbiamo spiegato all'inizio che nella nostra legge noi vogliamo indicare delle funzioni e delle attività che non tutti possono fare, mica in tutta Italia tutti i teatri si possono mettere appunto a diversificare le loro attività o anche a dire insegniamo la recitazione agli studenti delle scuole, però ci potrebbe anche essere quello che lo vuole fare, che ha la possibilità, che ha la vocazione, e ce ne sono tanti in Italia che lo fanno già, che magari lo fanno come attività collaterale proprio di quel teatro stabile. Allora io dico che le idee ce ne sono davvero moltissime e che si possono, ripeto, codificare all'interno di una gamma di funzioni che, ripeto, non tutti, non dovunque, però molti possono offrire, e offrire quindi anche alla scuola italiana senza costi aggiuntivi, perché abbiamo e guadagnarci un pochettino. Allora, noi ringraziamo l'onorevole Gabriella Carlucci che ha scritto questa legge, questo quadro sullo spettacolo dal vivo, Benedetta Buccellato, attrice. Abbiamo sentito varie proposte, quindi alla fine un po' i finanziamenti statali, un po' gli autofinanziamenti, si riuscirà praticamente a pareggiare i conti nel teatro? Dunque, parlo da chi teatro lo fa. Intanto sarebbe bellissimo che il teatro potesse essere fatto nelle scuole, non insegnato, ma fatto. Mi chiedo come si possa fare con le ore diminuite e con il maestro unico e senza costi aggiuntivi. Il problema è questo: se un governo, se vuole veramente investire in cultura, in scuola, in ricerca, la prima cosa che fa è impedire che questi settori muoiano di fame, perché purtroppo l'idea dell'attore è sempre legata ai lustrini, alle paillette. Non è affatto così, perché in Italia c'è una disoccupazione impressionante, c'è una sottoccupazione, c'è un lavoro nero, noi non abbiamo ammortizzatori sociali, gli attori vengono pagati solo quando lavorano. Ecco, e quanto è la paga media di un attore? Guardi, la paga il minimo sindacale sono circa 60 euro, che però da un po' di tempo a questa parte non vengono dati per un contratto che diciamo dura 3 mesi, ma poiché i produttori sono in difficoltà, perché sono stati tagliati i fondi, perché gli enti locali che venivano citati prima, gli enti locali sono stati falcidiati del 50%. Di tutte le spese che riguardano la cultura e la ricerca. Quindi i progetti sono belli, le proposte che ascolto sono belle, ma non mi sembra che poi la realtà sia questa. La realtà è fatta di miseria, è fatta soprattutto di miseria da una parte e di incultura dall'altra, per cui un giovane attore che ha studiato all'Accademia o in qualche altra scuola nazionale di recitazione, che finisce il proprio corso di 3 anni, viene assolutamente messo da parte rispetto al tronista e alla velina. E questo lo dico tanto per sintetizzare, cioè siamo al solito punto, questa società, la società italiana, perché altrove non è così, ritiene di non aver bisogno della formazione, della capacità, del merito. Insomma, abbiamo sentito, però ecco, la paga è molto molto bassa, la paga è molto bassa. 60 euro lordi immagino. Sì, 60 euro lordi. E più la diaria, questa famosa diaria. La famosa diaria con cui l'attore deve pagarsi completamente il vitto e l'alloggio, e la diaria sono sugli 85 euro. Insomma, non c'è da stare allegri. Emanuela Giordano, regista teatrale, abbiamo detto lei sarà al Valle con questo spettacolo sulle donne, c'è anche un altro spettacolo che ha per protagonista una madre, che si chiama Affari illegali di famiglia, con Rosaria De Cicco, e parla di una madre, di suo figlio, dei nuovi poveri. Ecco, abbiamo sentito che anche gli attori fanno parte dei nuovi poveri, Emanuela Giordano. Sì. E di che cosa parla questo spettacolo? È sempre un occhio, lei praticamente dirige soprattutto spettacoli che inquadrano un po' la condizione della donna. No, non necessariamente, ma diciamo sì, è una parte, la mia sensibilità e la mia esperienza ovviamente di donna e di persona che è sempre stata vicina ai problemi sociali da quando ero piccolina, da quando ero a scuola, e quindi tutto questo bagaglio mi fa avvicinare i problemi, che poi sono i problemi nostri, sono problemi di tutti. Sì, Affari legali di famiglia è un altro testo che con molta ironia, con molto sorriso, a volte strappando anche delle vere risate, però riesce a toccare con poesia, credo, e con verità il tema della nuova povertà. Cioè, parliamo di una donna, di un insegnante, tanto per parlare di scuola, che sta perdendo il suo lavoro di precaria, e ha un figlio tra l'altro con dei piccoli problemi di ritardo mentale, un figlio ovviamente spiritosissimo e geniale nella sua diversità, e si ritrovano su un'altalena di un parco per 3 ore al giorno, e in attesa che il loro piccolissimo appartamento venga liberato da un guardiano notturno, a sua volta precario, senza soldi, che subaffitta il loro appartamento per dormire 3 ore al giorno. Quindi una situazione, una catena di povertà, di miseria che induce a... Che colpisce anche questa provocazione, molte riflessioni. E poi colpisce questa madre, che è una madre single, perché è stata lasciata. Single, quindi, insomma, c'è un aspetto femminile. Noi, la Quota Rosa, è una trasmissione un po' femminista, leggermente. però no, abbiamo bisogno anche di un teatro militante nei confronti delle donne. Mi sembra che il suo rispecchi anche questa caratteristica. Sì, ecco. Lo è assolutamente un teatro militante. Io non, siccome poi c'è tutta una fetta di addetti ai lavori, di uomini che tendono a poi ridurre il valore, la qualità di un lavoro quando viene definito al femminile, io cerco di ripararmi dicendo che sto facendo soltanto il mio mestiere, al di là delle quote rosa. In realtà poi è vero che il mio interesse di donna è molto orientato ai problemi che sento, insomma, le urgenze che sento su di me, ecco. Quindi Affari legali di famiglia è uno spettacolo che amo follemente, così come Le invisibili, ripeto, senza vittimismi, senza lacrime facili, senza indurre... retorica, però non c'entra niente, poi bisogna però denunciare quello che sono i mali. Non deve essere necessariamente vittimistica o lacrimosa, credo che la denuncia fatta con ironia, con forza e intelligenza sia ancora più potente, ecco, questo è il mio parere. No, va benissimo. Poi cioè, credo che la gente a teatro debba essere, debba non ricevere una cronaca, quindi una denuncia, una cronaca. No, altrimenti legge un giornale. Io la ringrazio, Emanuela Giordano. La Quota Rosa. E torniamo a parlare di teatro, ovviamente con le nostre ospiti. Ricordiamo, siamo fiere di questo, che l'onorevole Gabriella Carlucci PDL e l'onorevole Emilia Grazia De Biasi PD, quindi due donne, hanno presentato una proposta di legge quadro sullo spettacolo dal vivo. Allora, abbiamo con noi Maria Cristina Ghelli, direttrice del Centro Nazionale di Drammaturgia, il Teatro delle Donne. E io mi viene spontaneo chiederlo: che cos'è il Teatro delle Donne? Perché il Teatro delle Donne? Il Teatro delle Donne è una struttura, un'associazione culturale che è nata nel 93, quindi in età, diciamo, in anni non sospetti di femminismo, però per promuovere la presenza delle donne nel teatro italiano. E abbiamo scelto il Centro di Drammaturgia perché struttura essenzialmente nuova, cioè molto diffusa in Europa, ma assolutamente poco diffusa in Italia e ancora oggi non riconosciuta in Italia neanche dal Ministero e dai vari decreti che sono stati fatti per le varie leggi, sia regionali che nazionali. E quindi diciamo che abbiamo individuato nella scrittura un elemento fondamentale del teatro italiano. Purtroppo in Italia il testo teatrale è poco considerato. È poco considerato perché tutta una forma di teatro, l'avanguardia stessa degli anni 70, aveva teorizzato un teatro che dovesse fare a meno del testo. E oggi che invece la società e i media sono completamente dominati da immagini, è essenziale che invece il teatro torni alla parola e al senso, perché oggi la parola è un elemento di lettura ed è un elemento fondamentale. Basta pensare che se Pirandello o Goldoni non avessero lasciato i loro testi, oggi non sarebbero rappresentati. No, insomma, lei quindi, la vostra attenzione è su un teatro più di parola e meno cabarettistico, perché anche un altro male italiano, male sì, insomma, cioè in un teatro impegnato, infatti noi parliamo di un teatro divertente che... però molto spesso si fa cabaret, no? Questo ecco. Un pochino almeno noi assolutamente no, noi facciamo un teatro di impegno, faccia conto che oggi debuttiamo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina con un testo che parla di eutanasia, interpretato da Barbara Valmorin e Luisa Cattaneo, il testo di Stefano Massini, versione dei fatti, e parla di una donna che è in carcere perché accusata di aver staccato la spina alle macchine che tenevano in vita il figlio. E questo è un monologo? No, è uno spettacolo interpretato da due attrici, è un dialogo tra un avvocato donna e questa madre. Quindi un testo di denuncia. Allora, Benedetta Buccellato, noi la ritiriamo in causa, lei ha sentito tante diverse soluzioni, qual è? Per lei che è un'attrice, per lei che ha recitato penso di tutto nella sua vita, Shakespeare, Pirandello, Euripide, Sofocle, qual è il male del teatro italiano? Il male del teatro italiano, ci sono dei mali interni, a volte il teatro produce noia e quindi come chi fuma uno dovrebbe dire di smettere, perché nuoce a tutti, è un teatro noioso, e quindi questi potrebbero essere i mali interni. Il male esterno è direi una politica nazionale che ritiene di poter fare a meno del teatro. A questo proposito volevo invitare tutti quanti a partecipare il 30 di marzo, questa nella mia veste di segretario dell'Associazione per il Teatro Italiano, abbiamo organizzato a Piazza Farnese a Roma dalle 4 alle 7 il 30 di marzo il Requiem per la cultura e lo spettacolo italiani. Abbiamo organizzato con sottofondo di Mozart o di Verdi, no? Abbiamo musica dal vivo di bande, di musica contemporanea. Insomma, abbiamo è un'iniziativa danzatori. Un po' provocatoria questo Requiem, no? Ma guardi, ma contro neanche tanto. Contro cosa? Contro i tagli del governo, contro i tagli del governo. Ma io sì, ma non solo questi ultimi. Diciamo che è stata una lunga agonia quella del teatro italiano, quindi questi sono ulteriori tagli. e poi un'altra iniziativa, a parte questa del Requiem, che è il 30 marzo, dicevo, a Piazza Farnese, è un'altra iniziativa che stiamo combattendo e che può dare il senso di come vengono considerati i poveri attori italiani. Stiamo combattendo per ridare la Villa Piccolomini, che è una grande villa del 600 con parco al centro di Roma, agli attori, così come era stato voluto da il conte Niccolò Piccolomini, che era un attore e che la lasciò come casa di riposo e come aiuto agli attori indigenti. Allora, noi ringraziamo Benedetta Buccellato e parliamo invece, sempre per parlare di teatro dal vivo, di un dibattito che si terrà questa domenica alle 17 nella strada sotterranea del castello di Vigevano, un dibattito donne in frac. Le donne di oggi hanno la capacità di ricoprire ruoli che per tradizione sono sempre maschili e in che rapporto di reciprocità? Tra le ospiti c'è Benedetta Campodonico, maestra compositrice, direttrice di coro, docente presso il Conservatorio Cantelli di Novara. Che cosa vuol dire fare il direttore d'orchestra o la direttrice d'orchestra? Perché qui è come il preside, la preside, non si sa mai. Buongiorno Benedetta Campodonico. È stato difficile diventare direttore d'orchestra? Ma io non lo so in prima persona in quanto non mi occupo di questo. Comunque devo dire che le colleghe che fanno questo effettivamente hanno qualche difficoltà. E direttore di coro come lei? Ma il direttore di coro è già una figura diversa, direi, perché è già più vicino alle persone, già più comunicativa in un certo senso, quindi più diretta, ecco. E quindi la figura come di direttrice di coro è già più ammessa o comunque accolta, anche perché c'è una tradizione per quanto riguarda ad esempio la direzione di coro delle voci bianche, che in genere sono bambini, e quindi la figura femminile è già più così considerata in linea con quello che è la funzione da svolgere. Che cos'è Donne in Frac? Donne in Frac è praticamente questa tavola rotonda che si terrà appunto a Vigevano presso il sotterraneo del castello, dove diverse personalità che appartengono alla cultura, c'è cioè una giornalista con me, una politica, avranno l'opportunità, oltre me per quanto riguarda la musica, di raccontare del proprio percorso, di quello che si incontra a livello di affermazione professionale in quanto donne, ognuna nel proprio settore. Insomma, Donne in Frac, domenica 22 marzo, ore 17, Castello di Vigevano. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.